America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ormai lo sapete, se ne parla da giorni, uno studente di medicina di 24 anni, James Holmes, ha compiuto nella notte fra giovedì e venerdì una strage in America, colpito da Aurora, questa tranquilla comunità nei sobborghi di Denver, entrato in una multisala dove si proiettava The Dark Knight Rises, che era il nuovo film dedicato alle avventure di Batman. Era mezzanotte, perché in America ci sono queste anteprime e tutti cercano di andare per essere i primi a vedere un nuovo film importante il giovedì sera. Questo ragazzo, pensate, aveva gli occhiali per visione notturna, un giubbotto antiproiettile, bombolette per gas fumogeni, due pistole Glock 40, un fucile a pompa Remington 870, un fucile d'assalto AR-15, un casco militare, una maschera antigas, protezioni alle gambe, insomma era armato di tutto punto. Perché? Beh, perché in America è facilissimo armarsi di tutto punto e, volendo, uscire per strada e fare una strage. Io non vorrei ricostruire quello che è successo, i dettagli tragici, orrendi della sparatoria. Vorrei invece soffermarmi su quello che, secondo me, è il problema di fondo che riguarda questo paese, cioè la mancanza di un controllo delle vendite di armi. Ecco, io posso entrare domani in un qualunque negozio e comprarmi una AK-47, un mitra, senza alcuna difficoltà. Me lo porto a casa, prendo i proiettili, non ho bisogno di un porto d'armi. Adesso ci sono forse alcuni stati in cui magari si richiede magari l'indirizzo, il nome, il cognome, ma non si fanno dei controlli sul passato. L'idea è che io le vado a comprare perché questo è uno sport, perché io devo essere libero nella mia aspirazione a usare queste armi grazie alla protezione del secondo emendamento della Costituzione, perché esiste la National Rifle Association, la NRA, e questa associazione, appunto, in teoria noi l'avremmo chiamata l'associazione dei cacciatori, in realtà è l'associazione dei proprietari di armi da fuoco, diciamo così, che è da sempre una delle lobby più potenti d'America. There are going to be other days for politics. This, I think, is a day for prayer and reflection. Qui sentite Barack Obama, dice: questo non è un giorno per pensare alla politica, è un giorno per pregare e riflettere. Ha continuato poi a discutere della vicenda sempre in termini molto emotivi. Ha ricordato che le sue figlie potevano essere in quel cinema, anche Romney, spesso parole di cordoglio, di solidarietà, di disperazione. Però alla fine i candidati si sono defilati, sia Barack Obama che Romney. Maybe it's time that the two people who want to be president of the United States stand up and tell us what they're going to do about it. L'unico con la schiena dritta è stato Michael Bloomberg, il sindaco di New York. Dice: non importa come Mitt Romney o Barack Obama si pongano rispetto al secondo emendamento, ma gli americani hanno il diritto di sapere come i loro candidati la pensano. Devo dire, ha ragione Bloomberg. Quasi mi dispiace che non sia in corsa anche lui per la presidenza americana, però una volta, lo ricordo, l'aveva messo: come posso correre per la Casa Bianca se sono favorevole al matrimonio fra gay e a bandire le vendite d'armi? Però ecco, il suo appello resta. I candidati, vi dicevo all'inizio, sono latitanti. La strage di Aurora resta una macchia nella storia di questo paese, eppure io credo che alla fine non si concluderà un bel nulla. Io credo che alla fine, proprio perché siamo nel mezzo di un anno elettorale, Barack Obama si criticherà coloro che si armano, però fino a un certo punto, perché sennò verrà bollato dalla destra come un uomo che non vuole tutelare il diritto dei cittadini e non vuole rispettare il secondo emendamento. Lo stesso succederà per Mitt Romney. Ecco, è in questo contesto che, per pura coincidenza, alle Nazioni Unite è in corso un dibattito, pensate, proprio sul disarmo. È un dibattito che è partito alcune settimane fa. L'obiettivo è quello di creare un consenso, un trattato, un accordo fra una larga maggioranza di paesi per evitare che ci sia un traffico d'armi, perché nel momento in cui c'è la facilità di acquisto per le strade americane, immaginate che facilità di acquisto c'è per portare queste armi poi in paesi instabili, dove poi si scatenano delle guerre civili, degli eccidi ancora più violenti, sistematici. Ecco, Il problema è serissimo, il problema è del disarmo. Non riguarda soltanto l'America, riguarda un po' tutti. Ecco, ho con me i microfoni di America 24, Cesare Ragaglini, rappresentante permanente italiano alle Nazioni Unite. Buongiorno ambasciatore, come sta andando questo dibattito sul disarmo all'ONU? Attualmente alle Nazioni Unite, come lei ricordava, il 2 luglio è iniziata questa conferenza diplomatica per arrivare a stipulare un trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali. L'obiettivo principale di questo trattato è quello di cercare di avere un trattato giuridicamente vincolante che garantisca l'applicazione dei più elevati standard nel commercio delle armi. Ci sono però anche delle polemiche su questo trattato, alcune di queste poi riguardano direttamente gli Stati Uniti d'America. Noi sappiamo, e se ne discute molto in campagna elettorale, che il secondo emendamento alla Costituzione americana consente di armarsi in modo molto serio. Ecco, io non so, non mi sembra plausibile che gli Stati Uniti, soprattutto in un anno elettorale, possano accettare un'imposizione dall'esterno che poi va a creare una gran confusione anche dal punto di vista politico. Come vede lei questa situazione? C'è un rischio di violazione del secondo emendamento? Guardi, il trattato ha veramente come obiettivo quello di regolare il commercio di armi, il commercio lecito di armi da guerra, proprio per prevenire e combattere la diversione di queste armi verso destinatari che non sono autorizzati, a cominciare anche da quelli non statuali, che possono poi utilizzare questi armamenti sia per atti di terrorismo o di attività criminali. Serve anche questo trattato nelle aspirazioni dei negoziatori perché per prevenire l'accesso di armi ai paesi che sono oggetto di embargo delle Nazioni Unite o per quei paesi che sono ritenuti responsabili di significative violazioni dei diritti umani. Come definiamo materiale bellico? Perché in America un AK-47, quindi il mitra pesante, non è considerato bellico, viene venduto normalmente in un negozio. Probabilmente per noi in Italia o per l'ONU invece questo è un armamento pesante, o sbaglio? L'ONU ha 7 categorie di armamenti che sono registrati alle Nazioni Unite e che prevedono ovviamente, non so, carri armati, sistemi di artiglieria, aerei, navi, missili e sistemi missilistici. Il trattato ha lo scopo di regolamentare non solo questo commercio di questo tipo di armamenti e di sistemi d'arma, ma anche quello delle piccole armi e delle armi leggere. Ovviamente i vari negoziatori, i vari gruppi negoziali hanno visioni anche diverse su come questo commercio debba essere regolamentato. Sappiamo alcuni dei paesi non allineati, non tutti ma alcuni, che vorrebbero un trattato molto limitato per quanto concerne la gamma degli armamenti da prendere in considerazione e soprattutto vorrebbero anche delle disposizioni per trasformarlo in un accordo di garanzia giuridica per i trasferimenti e sulle forniture. Abbiamo invece paesi come l'Italia, l'Unione Europea, il Canada, gli Stati Uniti, il Giappone che invece vorrebbero appunto avere un ampio scopo, un ampio obiettivo del trattato per includere anche le armi leggere. Per quanto riguarda gli Stati Uniti ovviamente fra queste due posizioni si inserisce quella di Washington. Perché? Perché loro ispirano la loro posizione a quella che è chiamata la domestic ownership, e cioè che il trattato dovrà avere l'obiettivo di stabilire sì un alto standard nel regolare il commercio lecito delle armi in generale e il trasferimento internazionale di armi, ma non potrà in alcun modo interferire nel commercio e il possesso delle armi all'interno dello stesso paese. Cioè ogni paese deve essere poi autorizzato a fare una lista delle armi che sono di libera vendita o di vendita proibita all'interno del proprio paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo all'ultima settimana di America 24 prima della pausa estiva. Cominciamo oggi con questa ultima settimana, torneremo a settembre con le novità dall'America, però intanto in questa ultima settimana vorrei dedicare le canzoni del giorno, ogni canzone del giorno, a una grande canzone dell'estate americana. Vi propongo oggi di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!